Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Leggere, scrivere e fare di conto, questa è l'attrezzatura base del programma di allenamento del nostro cervello. Intanto buongiorno, buon lunedì da Nicoletta. Sono sempre più numerose le ricerche che ci dicono che tenere il cervello occupato è fondamentale per mantenerlo attivo, prestante e in forma, un po' come succede ai muscoli per chi fa attività sportiva. Allora oggi cerchiamo di capire come e perché lettura e scrittura possono diventare strumenti di conoscenza, crescita e benessere personale. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde sempre a vostra disposizione. Soprattutto oggi sono molto contenta perché in linea con noi abbiamo il professor Stefano Cappa, docente di neuroscienze cognitive presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, per tenere occupato il cervello, il modo migliore per aiutarlo a funzionare bene a lungo nel tempo è appunto tenerlo, no, impegnato in delle attività piacevoli, stimolanti: leggere libri, giornali, scrivere, giocare a carte, dilettarsi in enigmistica. Il nostro cervello così se la cava bene, ma queste sono raccomandazioni che tutti sappiamo, ce le sentiamo ripetere tante volte, ma hanno delle basi scientifiche. Tutto questo nasce da ricerche che sono andate un po' a misurare gli effetti sul cervello e sui neuroni di queste attività. Sì, certamente, diciamo che in questo caso la scienza ha dato un po', ha dato un supporto al buon senso, perché certo, dire che svolgere delle attività intellettuali possa avere un effetto protettivo è un concetto diciamo abbastanza tradizionale, no? Le ricerche delle neuroscienze, soprattutto in questi ultimi anni, è diventato un argomento molto, molto caldo, hanno cercato di dimostrare quali sono i meccanismi, di formulare delle ipotesi sui meccanismi neurofisiologici che stanno alla base di questo effetto protettivo. E in effetti abbiamo delle evidenze, abbiamo dei dati molto interessanti da questo punto di vista, che spesso derivano dallo studio di modelli animali più che dallo studio dei soggetti umani, che ci dicono che in effetti c'è un, per esempio, gli ambienti arricchiti, nel senso dove ci sono molti stimoli, hanno un effetto diretto su fenomeni come la formazione di nuove connessioni e forse anche in una certa misura anche la formazione di nuove cellule. Sa che adesso il dogma che non si formino più neuroni non è più completamente valido. Comunque diciamo che i dati vengono da tante linee di ricerca differenti. L'aspetto interessante poi sarà dimostrare obiettivamente questi effetti, cioè facendo dei grandi studi in cui si possono confrontare anziani che svolgono regolarmente attività intellettuale stimolante con soggetti che per motivi vari, loro, di deprivazione eccetera, non hanno questa possibilità, e vedere se davvero questo riduce la possibilità di ammalarsi delle malattie legate all'invecchiamento, come malattie di Alzheimer. E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo. Quello sguardo negli occhi di Pitts dice che la letteratura dell'Ottocento non c'entra con le facoltà di economia e di medicina. Vero? Può darsi. E lei, Hopkins, è d'accordo con lui e pensa, sì, dovremmo semplicemente studiare il professor Pritchard, imparare rima e metrica e preoccuparci di coltivare altre ambizioni. Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. La bellezza, il romanticismo, l'amore. Sono queste le cose che ci tengono in vita. Dall'attimo fuggente, a proposito di lettura, leggere è un'arte recente che l'uomo si è inventato 6.000 anni fa, e così il cervello si è dovuto in qualche modo ingegnare a fare qualcosa che non aveva mai fatto prima, ma direi che ci è riuscito brillantemente. Leggevo, professor Cappa, un intervento della professoressa Marianne Wolf, neuroscienziata cognitivista, e lei appunto commentava, diceva che la lettura è proprio la prova della plasticità del cervello, e soprattutto quando una persona impara a leggere, il suo cervello fisiologicamente, intellettualmente, cambia per sempre. È così? Sì, è un aspetto di molto di grande rilevanza anche da un punto di vista teorico. Come diceva lei, il nostro cervello non è sicuramente un cervello nato per leggere, è un cervello sicuramente nato per parlare. Ma leggere è un optional, nel senso che ci sono culture umane perfettamente sviluppate che non utilizzano questo utilissimo strumento. Quindi non è una, diciamo, uno degli aspetti proprio costitutivi fondanti dell'essere umano. È sicuramente un'acquisizione culturale, come dimostrato dal fatto che in alcune culture si è sviluppato e in altre culture non necessariamente. Quindi l'aspetto affascinante è come lo strumento di base, cioè il cervello, che non è un cervello nato per acquisire la lettura, è in grado di leggere. Sì, è in grado, sicuramente questo è il risultato, ma da un punto di vista dei meccanismi, è in grado di adattare probabilmente una parte del suo macchinario che magari era indirizzato ad altri scopi, sì. Per esempio la parte del macchinario che è indirizzata a fare delle fine discriminazione di stimoli visivi e ad associarli a stimoli uditivi, è riuscito, perché il linguaggio fondamentalmente è questo all'inizio, no? È riuscito a sviluppare un sistema dedicato che, fra l'altro, la cosa molto interessante è che è estremamente localizzato, cioè ci sono delle strutture che veramente hanno un ruolo centrale nell'acquisizione del linguaggio scritto. Professore, veniamo al domandone classico, perché lei diceva ultimamente si parla molto di cervello, di come tenerlo in forma, e certo, arrivano sempre le ricerche, allora l'età d'oro sono i 45 anni, no, dai 40 in giù invece perde, i neuroni spariscono, se ne nascono di nuovi, insomma c'è un'età d'oro del cervello, un'età in cui è questo muscolo magnifico, intelligente al meglio della sua prestanza? Ma guardi, non c'è dubbio, nel senso che dipende, distinguiamo un po'. Che lei dicesse che è la mia l'età. Non la conosco. Insomma, posso dire la mia. No, in realtà è un dato di fatto che tutte le ricerche da secoli dimostrano che c'è una progressiva perdita dei neuroni e quindi sicuramente da un certo punto di vista puramente di quantità l'età d'oro è quella del picco di maturità cerebrale, quindi intorno ai 20-25 anni, è l'età in cui tipicamente per esempio i matematici fanno le loro scoperte più importanti. Dopodiché è chiaro che alcune capacità, quelle soprattutto che dipendono da fattori come la velocità di elaborazione dell'informazione, la capacità, quella che chiamiamo la memoria di lavoro, cioè la capacità di tenere in mente una quantità di materiale per lavorarci sopra, eccetera, inesorabilmente declinano. Questo non è una scoperta particolarmente sconvolgente. C'è da dire che poi invece ci sono altri aspetti del funzionamento cognitivo che non presentano questo declino. Pensi per esempio, tanto per dire una cosa classica, al vocabolario, la capacità di acquisire nuove parole, sì, di arricchire il proprio lessico, questa non declina particolarmente con l'età. Ho fatto un esempio classico degli studi psicologici. Per rincuorarci. Ma ci sono tanti aspetti che sicuramente non declinano o declinano meno, e che poi fanno parte poi del contesto generale del funzionamento cognitivo di una persona. Voglio dire, sicuramente a 20 anni una persona molto dotata è molto più brava a risolvere equazioni di quanto non lo sarà a 60, su questo non c'è dubbio. Però ci sono altri aspetti del funzionamento cognitivo, cioè il funzionamento della mente non è solo risolvere le equazioni, no? Assolutamente. E poi nel frattempo noi continuiamo a tenerlo allenato e soprattutto a fare le cose che ci piacciono, professor Kappa, sì. No? Ecco, perché non ci si può imporre, ci sono persone che assolutamente, dicono devo fare il cruciverba perché mi dicono bisogna fare bisogna fare delle cose e poi variarle, vero? Assolutamente. E forse ne avevamo già parlato proprio nella sua trasmissione, ma l'altro aspetto importante è associare l'esercizio mentale all'esercizio fisico, perché quello ha un forte effetto protettivo. Quello torna sempre utile, muoversi è fondamentale, proprio perché siamo nati per muoverci, non per stare seduti. Ma direi che anche lì il buon senso è stato supportato da dati scientifici negli ultimi tempi. Professor Kappa, grazie per essere stato con noi, figuri. Ma rincuorato un po', buona giornata. Anche a lei. Grazie. La lettura fa di un uomo un essere compiuto. Bacone. E a leggere, abbiamo capito, si impara, anche se noi, il nostro cervello non era nato per leggere, ma si fa un po' di fatica. L'impegno serve, ma da solo in qualche caso non basta. Torniamo indietro nel tempo, ai nostri primi anni di scuola, prima, seconda elementare. L'alfabeto, le parole scritte sulla lavagna. C'era questo bambino, non chiedetemi dove, che non riusciva a leggere e a scrivere. Faticava tanto a imparare, non riusciva a ricordare niente, neanche che la Y viene dopo la X. L'alfabeto era il suo nemico, le lettere gli ballavano davanti agli occhi e gli davano così fastidio che lui si stancava a leggere e a scrivere. Stava male per le sue difficoltà. Tutti lo chiamavano asino sciocco, ma lui sopportava tutto questo con molto coraggio. Quando una mattina tirò fuori il suo vero talento, la sua teoria gli aprì le porte del mondo. Capito di chi parlo? Albert Einstein! Giusto, Rajan, Albert Einstein, un genio, un grande scienziato. Con la sua teoria della relatività ha rivoluzionato il mondo. E adesso ditemi, che cos'è questo? Un elicottero! Un elicottero! Questo non è un normale elicottero. Il suo inventore era un grande artista, Leonardo da Vinci, ditelo voi. Leonardo da Vinci! Leonardo da Vinci aveva difficoltà a leggere e a scrivere. Allora, vi siete chiesti perché vi sto raccontando tutto questo? Per farvi capire che sulla nostra Terra sono spuntate piccole stelle che con la loro luce hanno illuminato il mondo, perché sono riuscite a farci guardare le cose con i loro occhi. Pensavano in maniera diversa e le persone vicine non lo accettavano e le hanno ostacolate. Loro però ne sono uscite vincenti e tutto il mondo è rimasto a bocca aperta. Leonardo da Vinci, ma anche Albert Einstein, Thomas Edison. Uno faceva errori di ortografia, l'altro non parlò, si dice, fino ai 3 anni. Edison leggeva con fatica tanto che non poté frequentare la scuola. Ci sono bambini che hanno forti difficoltà nella lettura, le parole sono grovigli, riconoscere le lettere è per loro una grande fatica e i risultati, a fronte di tanto impegno anche, non sono incoraggianti. Molto spesso gli insegnanti dicono ai genitori: ma il bambino è svogliato, pigro, non si applica. Allora, cari amici, se a casa avete un bambino che ha difficoltà a scuola, magari particolarmente svantaggiato in una specifica materia, potete cominciare a chiamarci 800 24 00 24. Se la vostra carriera scolastica è stata particolarmente faticosa, se per voi studiare, scrivere, leggere, fare calcoli ha rappresentato veramente un grande sforzo, chiamateci e aiutateci a capire quanto vi è costato in termini di fatiche, anche di scelte e relazioni, e se e come ne siete usciti. Oggi in linea abbiamo con noi il professor Giacomo Stella, professore di psicologia clinica nell'Università di Modena e Reggio Emilia e fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia. Buongiorno professor Stella, bentornato. Buongiorno, ben risentita anche lei e tutti gli ascoltatori di Radio 24. Professor Stella, apprendere un'attività impegnativa e faticosa, in quanto tempo mediamente un bambino impara a leggere e a scrivere correttamente? Dunque, bisogna parlare di bambini italiani naturalmente, perché questo varia a varia a seconda delle difficoltà di ortografia. Un bambino italiano impara a leggere e a scrivere nel corso del primo anno di scuola, quindi in tempi molto rapidi. Abbiamo dei dati di ricerche europee che abbiamo già da più di un decennio, che confrontano i tempi di apprendimento della lettura e della scrittura nei bambini di tutte le lingue europee, e noi siamo ai primissimi posti insieme con i finlandesi, con i greci, con i tedeschi, cioè con le cosiddette lingue che hanno un'ortografia molto regolare e trasparente, per essere semplice. Per esempio, noi abbiamo le vocali, 5 vocali, e abbiamo solo un modo per pronunciare le lettere A, O, E, U, eccetera, no? Beh, lei pensi che in inglese ci sono 20 modi diversi, e quindi per imparare 20 modi diversi per leggere le vocali ci vuole più tempo, mentre per imparare un unico modo è sufficiente un anno. Ecco, quindi per noi il tempo è molto molto rapido. In un annetto ce la facciamo. Ma professore, È vero che leggere ai bambini le favole quando ancora non vanno a scuola aiuta ad attivare il cervello che legge? Dicevamo prima col professor Kappa che non, insomma, l'uomo non è nato per leggere, poi ha imparato, il cervello ha trovato strade ed è riuscito a farlo. Ma volevo chiedere a lei, che così lo traduciamo in consiglio per i nostri ascoltatori che hanno magari bambini che non sono ancora in età scolare, vanno alla scuola materna, se la lettura delle favole può in qualche modo aiutare, no, al cervello a farsi una sorta di riscaldamento. Allora, leggere le favole è sempre utile per un motivo, non solo perché si sviluppa la fantasia dei bambini, ma perché la lettura di qualcosa di scritto porta a formulazioni verbali e di enunciati molto corretti, formalmente adeguati, e quindi è sempre utile, ma non previene le eventuali difficoltà di lettura. Tiene in attività il cervello, ma prima il mio amico e collega Stefano Kappa diceva che ci sono, e sono ben localizzate, alcune strutture del cervello che sono filogeneticamente predisposte per la discriminazione visiva e che noi adattiamo velocemente. Sì. Per la discriminazione delle lettere. Queste non vengono esercitate, questa componente non viene esercitata leggendo le favole. In sintesi le direi questo. Il luogo cerebrale, i centri del cervello che elaborano la lettura, sì, formano un cosiddetto triangolo, perché sono tre punti distinti. Adesso è una semplificazione dire che sono tre, ma insomma, ma noi li vediamo, è una rete tre, sì, che ha tre punti di riferimento importanti. Quella che citava prima Kappa ne citava due, appunto, diceva una buona capacità di discriminazione e la capacità visiva e la capacità di metterle in relazione con degli stimoli verbali, e quindi creando una rete che funziona bene solo se funzionano tutti e tre gli angoli, diciamo. Ecco, il famoso triangolo, insomma. Quindi la leggere le favole aiuta sicuramente, aiuta questo, va incoraggiato assolutamente, ma non è detto che sia specificamente predisponente per la lettura. Abbiamo Antonio che ci chiama da Roma all'800 24 00 24. Buongiorno Antonio e benvenuto. Buongiorno a tutti. Grazie. Grazie a lei, ci dica. Allora, la mia piccola esperienza è stata questa. Io alle superiori avevo difficoltà e nell'apprendimento e nell'esprimermi in italiano, nel senso che avevo molte difficoltà a parlare in italiano, e i professori, per agevolarmi in materie tecniche, io ho fatto l'istituto tecnico geometri, sì, mi facevano parlare, mi facevano le interrogazioni in dialetto. Dai, e così lei andava spedito? Sì, riuscivo ad avere una padronanza di linguaggio, anche se in dialetto, però riuscivo a sostenere le interrogazioni, riuscivo a avere, diciamo, capacità nell'esprimermi e fortunatamente poi col tempo sono riuscito a superare questo problema. Poi sono stato all'università e poi ho fatto una facoltà che dovrebbe avermi agevolato. Comunque è stata proprio... è stata una difficoltà. Ma lei con il tempo e con l'aiuto degli insegnanti che hanno trovato un escamotage è riuscita a superarla. Grazie Antonio. Professor Stella, che cosa può essere successo? Prima dei mercati, di Antonio, rapidamente. Naturalmente, ecco, mi suggerisce questa ipotesi. Noi siamo spesso portati a pensare che i disturbi specifici di apprendimento dipendano solo dalle difficoltà di lettura. Dipendono anche da pregresse difficoltà di linguaggio. E quello che racconta Antonio sembra illustrare questo tipo di problematica. Ora, soprattutto io per esempio vengo dal Veneto, sono originario del Veneto, dove si parla e si parlava, soprattutto quando io ero bambino, moltissimo in dialetto. Imparare un dialetto è come imparare una lingua. Perché il dialetto veneto è una lingua vera e propria, con alcune regole grammaticali diverse dall'italiano. per esempio, vabbè, ma non mi dilungo su questo. Va bene. Allora, per chi ha difficoltà di linguaggio, imparare una seconda lingua, sì, che è l'italiano standard, diciamo, potrebbe essere un problema. Antonio, se è vero che faceva geometri, io non sono, sì, un esperto di geometria, ne ho fatto quel tipo di scuola, e lo interrogavano in dialetto, i suoi docenti erano molto molto sintonici e cooperativi, ma certamente lui in dialetto non avrà trovato una parola come trigonometria, o non avrà trovato una parola in dialetto per dire perimetro o area. Quindi le difficoltà del linguaggio, coloro che hanno avuto una difficoltà di linguaggio hanno difficoltà a trovare le parole. Ci fermiamo perché continuiamo a parlare di lettura e di scrittura. Mi raccomando, attivatevi chiamando il nostro numero verde 800 24 00 24. Parliamo dei nostri bambini, di bambini che hanno difficoltà nella lettura. Vediamo se è una difficoltà che si può superare con un po' di impegno, ma se invece è una spia di un disturbo dell'apprendimento specifico. E pensiamo a noi quando eravamo piccoli, le difficoltà che abbiamo incontrato. Essere e benessere. Oggi insieme al professor Stella parliamo di letture, parliamo di scrittura, parliamo di noi, del piacere che anche abbiamo nella lettura, e sappiamo, le ricerche lo dimostrano, ne abbiamo parlato in apertura col professor Stella, che per invecchiare bene dobbiamo tenere allenato il nostro cervello, ma è inevitabile, bisogna fare anche i conti con dei bambini che possono essere anche magari degli adulti, che hanno difficoltà nella lettura e nella scrittura e anche nel fare di conto. Abbiamo in linea con noi un po' di ascoltatori, ma professor Stella, intanto io farei sentire un breve estratto di un film che abbiamo selezionato proprio per entrare meglio nel tema. Quando ero piccolo leggevo lentissimo e i miei compagni di scuola si divertivano a sfottermi. Io mi vergognavo da morire. A scuola ero come te, te lo giuro. La mia grafia era illeggibile, il mio quaderno era un campo di battaglia. Non ti è familiare? Più o meno. Era un disastro, non avevo mai voglia di leggere. So cosa vuoi dire. Ecco, lo vedi? Voglio che tu mi legga questo brano della Dichiarazione di Indipendenza. La Dichiarazione di Indipendenza è stata firmata dai memori. Stanley, c'è scritto firmata dai membri. Sì, è quello che ho detto. È stata firmata dai membri. Ti aiuto io, questa è una parola lunga. Leggiamola insieme, dai. Continentale. Professor Stella, ci sono dei bambini che fanno più fatica di altri a imparare a leggere, a scrivere, a fare i calcoli. Si parla, lei ha anticipato, di disturbi specifici dell'apprendimento. Di che cosa parliamo? E ci vuole fare soprattutto degli esempi in modo che noi possiamo capire se dietro la difficoltà del nostro bambino c'è un po' di pigrizia, magari non ha capito bene, ha bisogno dei suoi tempi, o c'è invece un disturbo. Ma sottolineo subito, per tranquillizzare un'ascoltatrice che mi scrive, non stiamo facendo diagnosi di dislessia in onda, professor Stella. Assolutamente no, per una diagnosi di dislessia è richiesto un approfondimento specialistico che dura alcune ore, quindi non è mai una diagnosi. Comunque di diagnosi noi non ne facciamo mai. Precipitosa. Diciamo che un conto è parlare di sospetto e di rischio, un conto è parlare di diagnosi. Certo. Le persone devono abituarsi a, visto che ormai siamo così esposti alla cultura anche medico-sanitaria, a stare attenti ai termini che sono molto diversi nei significati fra di loro. Quindi individuare un indice di rischio, per esempio, è possibile attraverso l'osservazione di come i nostri bambini imparano a leggere. Come ho detto prima, la maggior parte dei bambini nel corso del primo anno di scuola impara a leggere. Sì. E se le prime difficoltà si possono notare, per esempio, a partire esattamente da questo periodo, in cui ormai le lettere sono state presentate, in cui è stato fatto ormai 4 mesi di esercizio delle corrispondenze tra i suoni e i segni, e la maggior parte dei bambini, avendo ricevuto molti stimoli e avendo le predisposizioni di cui parlava prima K, e cioè di questo sistema che noi siamo in grado di convertire rapidamente verso questo tipo di attività, mostrano una grande facilità e leggono tutto quello che gli capita sotto gli occhi. Quando questo non succede, o quando succede quello che abbiamo sentito prima, cioè di un bambino che scambia la A con la E, che scambia la B con la D, che inverte la sequenza delle lettere che sono scritte, nel senso che c'è scritto la legge al, c'è scritto il legge lì, eccetera. Oddio, a questo punto dell'anno scolastico non bisogna mettersi subito le mani nei capelli, però bisogna drizzare le antenne e cominciare a osservarlo con più attenzione. Abbiamo Raffaella che ci chiama dalla provincia di Vicenza, e poi prenderei Paola da Roma, Camilla e Cleglia. Bene, sono le nostre ascoltatrici che ci chiamano all'800 24 00 24. Raffaella, buongiorno. Buongiorno, grazie. Mi dica. Volevo chiedere un'opinione al professor Stella. Vi ritorna un po' la voce? No. Ma no, a noi la sentiamo bene. Benissimo, vada, grazie. Allora, faccio una premessa. Io sono una grandissima lettrice, perché leggo circa 35-40 libri all'anno. La lettura è una mia passione. E sono mamma di una bambina di 6 anni che ha appena compiuto da una settimana e che frequenta la prima elementare. Sì. Che invece, a differenza di me, ha un po' di problemi nella lettura, non sente proprio anche il suono di alcune lettere. Tipo? Non mi sono ancora preoccupata, però chiedo come posso fare per stimolare questa bambina ad avere un po' più l'apprendimento nei confronti dei suoni, o se il fatto che ogni tanto lei scriva in maniera rovesciata anche alcuni numeri possa invece farmi pensare che la bambina abbia dei problemi, non necessariamente dislessia, ma comunque dei problemi che vadano trattati con uno specialista. Grazie a Raffaele, andiamo a Paola che ci chiama da Roma. Paola. Buongiorno professore, chiedevo questo parere per un ragazzo di 10 anni, sta frequentando la quinta elementare. Nel passato ho avuto difficoltà a discriminare le B, le D, le P e le Q. Ora legge benino, però è come se non cogliesse rapidamente il significato di ciò che legge. E quindi molto spesso dobbiamo ritornare sul paragrafo, dobbiamo spiegare, e quindi è come se lui poi avesse difficoltà a ripetere ciò che ha letto. Professor Stella, grazie Paola. Professor Stella, due Raffaella, Paola, una bambina di prima elementare, un ragazzino di 10. Noi dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. No, non ancora, bene, benissimo. Allora ci allarghiamo noi, professor Stella è la nostra. Allora, sentire due bambini di questa età così diversa mi consente di dire, ecco, come ha detto giustamente la mamma di Vicenza, questo è un segnale di allerta, sì, non un indicatore di sicuri disturbi, perché sì, abbiamo un tempo di apprendimento che ho detto essere un per anno. Il 90% dei bambini un anno di scolarizzazione, tuttavia ci sono delle variabilità individuali che ci consentono di dire aspettiamo ancora un po'. Essere e benessere. Voilà, professor Stella, siamo di nuovo qua. Sì, dicevamo aspettare, ma volevo dire aspettare non senza far niente. Cioè bisogna aspettare a emettere una diagnosi, che è un giudizio a volte lascia degli strascichi, no? E quindi è troppo presto in prima elementare per dire questo bambino è dislessico, ma non è mai troppo presto invece per avviare un lavoro più accurato e individualizzato sulle capacità di apprendimento di questa bambina. Per esempio, una cosa molto utile da fare è quello, visto che la signora dice non sente le lettere, che non è esatto naturalmente, perché se lei ripete correttamente, per esempio un piccolo trucco è questo, io ti propongo di scrivere una parola, che può essere la parola finestra, supponiamo, prima dovresti ripeterla. Allora, se la ripete correttamente ci sente bene. Sì. Secondo, devi segmentarla in fonemi, cioè dire F, I, N, S, T, R, A. Allora, la signora vedrà che le lettere che la bambina tende a non scrivere, tende a ometterle anche quando fa la segmentazione fonemica. E quindi bisogna fare un lavoro di potenziamento in questa direzione, senza chiedersi è dislessica, non è dislessica. Certo. Quello è un problema che dobbiamo affrontare eventualmente, esatto, con uno specialista, ma in seguito. Adesso, chi è lo specialista che fa diagnosi, professor Stella, e a chi rivolgersi? Allora, ci sono tre figure professionali che vengono individuate per operare in questo ambito e sono lo psicologo, il neuropsichiatra infantile e la logopedista. Sì. Di questi due fanno una diagnosi definitiva secondo l'Istituto Superiore di Sanità, perché le logopediste concorrono alla valutazione ma non possono emettere una diagnosi. Sì. Però sono persone molto importanti, per esempio in questa fase io più che andare subito per una diagnosi andrei da una logopedista a dire mi dà alcuni consigli per potenziare l'apprendimento della lettura, della scrittura di mia figlia. Invece per l'altra mamma, venendo al bambino di 10 anni, devo dire che a 10 anni possiamo è già possibile stabilire con buona, anzi con certezza, se il disturbo è presente o no. La signora dice prima leggeva stentatamente, adesso mi sembra che legga più fluentemente ma non capisce quello che legge, perché purtroppo la comprensione deve poter poggiare su una decodifica, cioè su un'attività di trasformazione di segni in suoni che sia automatizzata, cioè addirittura un neurologo americano negli anni 50 parlava di istinto di lettura, nel senso che noi non ci rendiamo nemmeno conto di tutti i processi che facciamo quando vediamo una parola, diciamo semplicemente che cosa c'è scritto. Sì. E questo fa, diciamo, libera le risorse che vanno a orientarsi sugli aspetti di comprensione e di rielaborazione del linguaggio. Quando un bambino mantiene magari delle difficoltà consistenti in questi processi che noi definiamo bassi perché sono automatici, completamente automatici, cioè sottratti alla nostra consapevolezza, al nostro controllo, quando un bambino mantiene anche a 10 anni queste difficoltà, magari apparentemente non commette errori, ma fa uno sforzo esorbitante per una fatica, certo. In linea con noi abbiamo un ex bambino, faceva fatica a leggere, però poi è riuscito, no, a superare queste difficoltà, è laureato in fisica, ormai è un uomo e soprattutto lavora anche per progetti, per così progettare libri ad alta così facilità di lettura per bambini dislessici. È in linea con noi il dottor Daniele Zanoni. Ciao Daniele. Sì, ciao, ciao Nicoletta. Allora, saluto anche il professor Stella e tutti gli ascoltatori. Daniele, Ciao. Ho raccontato brevemente la tua storia perché è una cosa che non ci stancheremo mai di ripetere, professor Stella, è che avere problemi di dislessia non significa avere un tipo di intelligenza diversa, sono bambini assolutamente normali, non sono né più intelligenti né meno intelligenti degli altri, ma volevo chiedere a Daniele, che sta lavorando su dei libri che aiutano i bambini, facilitano, dovrei dire, i bambini dislessici a leggere, e vorrei dedicare proprio, abbiamo un paio di minuti, Daniele, ci racconti rapidamente come possono essere d'aiuto? Sì, certo, io ho sempre avuto una grossa curiosità verso la lettura e verso il fatto di riuscire a leggere con meno fatica e quindi ho iniziato a discriminare i font, le font che potessero essere più simpatiche per me. Dopodiché ho trovato con Angolo Manzoni Editore la disponibilità per costruire una collana editoriale con caratteristiche tipografiche che potessero in qualche modo agevolare la lettura di questo. Quindi abbiamo fatto un lavoro molto grosso e abbiamo anche costruito una font che potesse aiutare. Poi anche con Bianco e Nero Edizione abbiamo costruito un'altra font che si chiama Zoom e sarà liberamente utilizzabile per scopi non commerciali, quindi a disposizione. In contatto con Bianco e Nero Edizioni è possibile chiedere di scaricare queste. E questo, professor Stella, questo aiuta sicuramente il bambino ad arrivare a quegli automatismi a cui lei si riferiva? Certamente. È una palestra. Il lavoro che sta facendo Daniele insieme con queste case editrici è di grande aiuto. Naturalmente bisogna essere chiari, non risolve la dislessia, è come dire, se una persona ha delle difficoltà di deambulazione, se io posso agire sulla superficie su cui cammina, rendo più facile la sua spostamento. Questo accade anche per la lettura e quindi questo diventa molto importante, perché la cosiddetta attenzione visiva incontra meno ostacoli e certo, quindi è meno ostacolata, scusi la ripetizione della parola, nell'accesso al significato. Allora, io volevo salutare e ringraziare il professor Stella, Daniele Zanoni, Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Se avete ancora dei dubbi, volete dei contatti, una spiegazione, essere benessere@radio24.it, potete come sempre scriverci, ma anche raggiungerci sul nostro profilo Facebook e soprattutto scaricateci. Buona giornata da Nicoletta Carbone.